sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere profondo. Sono il santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo.